manco aumentato di watt, solo la LG ho aumentato e basta. Io non sento la marchigia, attore nel 24, io al 23 euro sono passato a salutarli. Ma mandi un po' di cioè un smartelli un bel cavolo. Ma che tu mi stavi sfrattando, infatti mi chiedevo a Riccardino, ti stavo cercando sul 23 non ti ho trovato. Vabbè già, tu c'è anche un baracchino, diciamo, omologa, cioè un baracchino normale, ecco, perché ti sblatterlo. Ma questo qua lo sai che c'ha i filtri e tutto, e ti sento, Era un watt e mezzo quando io lo stavo usando, l'ho attaccato adesso in Italia per farmi dare un controllo da Roberto, però io ero un watt e mezzo, come sono adesso? Adesso sono un watt e mezzo, solo che ha dei picchi positivi. Ho capito, comunque ti sento, comunque attore a Bacchiso lo risento. Un canale a fianco, a 24, niente, zero. Lo sei tu dal 10 alla ti sento come? Siamo vicini lui, aspetta un attimino. E intanto questo attacco un po' qui. Ah, ma adesso sono rimasto qua, tranquillo, là, non ci sono problemi. Vabbè, Bacchigio, non lo sento io, Luca. No, 23. Ah, pensavo fosse qua sul 10, ho detto, ma strano che non l'ascolto. Vai Riccardi. Sì, lo so, sono morti tutti, no, non c'è più nessuno, siamo rimasti in pochi. Cosa lo sta portando? Ma tu sei sabato facendo prova. C'è un rumoraccio. Ma è lui, il segnale suo, è qua 9:10 come prima, si sente. Sì, non sei l'unico, lo sentiamo tutti. Stai uscendo, Salvatore, se sei tu. Va. Casa. Ma sta tu, ecco, non lo usi mai, Luca, esatto. Certo, l'ho attaccato anche poco fa. Ma te sei stufato, preferisci usare altri baracchini. Mi faccio girare, non è che mi sono stufato. La Saturnecco rimane sempre la mia chicca più perita. Infatti è strano, lo usavi spesso, infatti adesso ogni tanto sento baracchini nuovi con te. Perché ne ho troppi, capito? Ne ho 3, 4, 5 e bisogna farli girare. Vabbè, quello è vero, ogni tanto è bene accenderli. Ok, vediamo Lucariello. Sì, io sono andato a farmi un giro lì a prima a Maria di Sorso. Mi avevo bevuto un paio di birrette e sono un po' stordito, Ecco. C'è Claudio per caso? Claudio non c'è, l'ho sentito in un altro canale, non so che canale era perché non ho il numero del canale. Sono qua, Massimiliano. Ok, là. Ti puoi spostare da questo canale qua, per favore. Sì, vai a 30. Scusate, buonasera a tutti. No, ciao Massimiliano, ciao Claudio. Ciao a tutti e due, Claudio e Massimiliano. Ok, sono andato per passare allo Shani, ho messo che burro attaccato col tipo, con uno che era lì alla cassa. Non c'è un'anima in giro a Sassari, cacchio, è una cosa mai vista, sembrava di quelle giornate di coronavirus. Non ho visto una persona in giro stasera. Non c'è niente adesso, capito? E cosa fai? Prima il giorno di festa era sempre pieno di gente in piazza e cosa, ma non mi avevi nulla che timide tutti. No, ma non è neanche così, io ieri, domenica sera, domenica non dico notte, erano le 9, dai, sono andato con un amico, era pieno di gente, in via Roma non c'era un bar vuoto, oggi è tutto chiuso, non c'è un'anima, ci credi nelle vie di coso di via Roma, non c'era un'anima in giro, ho detto buh, che strano, sono andato allo Shan, invece allo Shan qualcuno c'era, e mi sono attaccato con quel coso, che suonava il coso, come si chiama, il bip dell'allarme. Sono andato all'allarme. Allora, già da come sono entrato, siccome lo so, che qualche volta mi è capitato di lì al Carrefour, sono entrato, ho detto buh, non è niente, ho detto, sono andato il coso. Poi quando sono andato alla cassa, come mi sono avvicinato alla cassa, ho iniziato a suonare, ho detto ho detto, io non c'ho niente qua in mano, questa è la roba, prendetevi tutta la roba, controllatevi tutto alla cassa, ma lei deve stare attento con queste cose che si mette addosso, io ho fatto, io non devo stare attento, dovete stare attenti voi se avete dei problemi di sensibilità della paracca, sono problemi voi, ma qua poi magari vengono qua, li fanno i controlli, voi mi potete fare i controlli che vi fa, volete voi, vi faccio vedere la merce, io non ho niente da nascondere, e poi perquisizioni non vi dovete neanche avvicinare a me, se c'è qualche problema chiamate la polizia, mi fate una denuncia, a quel punto poi so come comportarmi, ma qua poi dobbiamo far venire la polizia, a me non me ne frega niente, fate venire quello che volete, io mi allungavo una mano e si muoveva su una cosa, ho detto è la camicia, il pantalone, ma è roba che ho già qualche anno, non è roba nuova di un paio di anni. Poi poi alla fine mi è venuto il dubbio, ho detto, ma non sarà la mascherina che suona, suona solo al Carrefour e allo Shan, gli altri posti non suonano. Chi è che ti ha detto cosa? Quello che è un po' invalido? No, non è che mi ha detto cosa, perché l'ho avuto discussione io, non è che ci siamo bisticciati, ho detto guarda, non è per polemizzare, a me non me ne frega niente, sono problemi vostri, io posso venire vestito in mutande, come ti mi piace, sono problemi vostri, io vi faccio vedere che non ho niente, questa è la merce, me la controllate, guardate lo scontrino, io non ho niente da nascondere, ma poi se vengono i controlli, sì, li possono venire quelli bianchi, l'importante è che non si faccia la perquisizione, l'unica persona che mi può fare la perquisizione con denuncia è la polizia o i carabinieri, diciamo, e poi ridiamo se voi mi dite che io ho qualcosa addosso, perché io non ho niente da nascondere, ma così poi li fanno perdere, non me ne affutti nuda, io il tempo l'ho perso, però vi faccio spaventare forte a voi. A me una volta, per due volte mi è successa una cosa strana a Città Mercato, una volta mi ha suonato e io era il periodo che avevo appena fatto il tatuaggio di Tyson, quello che ho nel braccio, e mi portavo sempre con la crema per il mare, quella al 50%, per metterla sopra il tatuaggio perché per non rovinarlo, perché il sole lo rovina, io ho avuto la brillantina di farlo d'estate. Beh, fatto sta che passo e mi sola la cosa e mi faccio vedere il borsello, svuoto il borsello e praticamente passi col borsello di lì e suonava di nuovo. Beh, lo sai cos'era? Era praticamente quella crema che usavo per il tatuaggio e non la vendevano niente, ma lei non se ne deve mettere nel borsello di queste cose, perché se noi l'avessimo venduta avrei pensato che lei l'ha fregata. Ma stiamo scherzando, io posso fare quello che voglio, siete voi che vi dovete aggiornare, glielo ho detto anche io. E un'altra volta, cazzo, mi vedo tutte le guardie appresso, cazzo, vedo le guardie correndo, ho detto, cazzo, questo è anche qualcuno ha furato. E invece stavano perseguitando a me, Robert. E mi dice, lei ha preso un CD, ha rubato un CD. Ma stavo scherzando. Io avevo comprato un CD, l'ho pagato e l'ho messo nella busta, me l'hanno messo nella busta e me ne sono andato, tutto lì con lo scontrino dentro e tutto. E mi avevano accusato, ho detto, chi è che vi ha mandato? Voi adesso vi dovete dare il nome, perché vi sto denunciando a tutti. Perché mi avete fatto fare una figura di madre, se ho detto, li prendono il cognome e li denunci, cazzo, che gli ho fatto per lo scontrino tutto quanto. Dice, no, perché abbiamo trovato un CD senza il CD dentro, una custodia senza il CD dentro, e praticamente abbiamo visto che lei stava prendendo il CD e ci hanno detto, è quello lì che ha rubato il CD, perché stava toccando i CD, capito? E a me avrebbe dovuto trovare, io ho fatto una storia, cacchio, si è buttato in terra a bricco, ma cacchio, ne è sceso il direttore, ma ho fatto i nuovi nuovi, tu vedi come è venuto il direttore a scusarsi, non rubato, nel senso ho portato una cosa da sostituire, ma con eleganza, tutto tra... Cattaghita, e chi mi dice che lei non l'ha comprata da un'altra parte, un'antenna di quelle TV, quelle logarie, chi mi dice? Adesso, prima di tutto, adesso lei si controlla tutte quante le cose, lei si fa l'inventario e si controlla, io non mi muovo la barca, poi in un attimo è arrivata tutta la gente, un casotto nero a voce, ho detto mi abbassi immediatamente le voci, non si... mi è arrivato il direttore, era uno tedesco che parlava l'italiano, però si era te. Mi scusi, cosa è successo? Ho detto tutto, ci scusi, guardi, è tardi, forse l'impiegata è un po' alla cassa centrale, è un po' strano, ho detto non me ne frega niente, cacchio, qua, questa qua non si deve permettere a dubitare di me, ma proprio attaccato umanamente. Io sono venuto qua soltanto a sostituire un pezzo, detto prima di entrare ho chiesto tutto quanto se era possibile, e ti ha fatto un sacco di giri e voleva lo scontro, prima me lo cambiava, me l'ha detto il commesso che non c'erano problemi perché erano difettosi, queste cose sono arrivate lì, anche poi mi dia lo scontro, io con scontrino non ne ho, ma avete detto che lo cambiavate, a chi mi dice che lei non l'ha acquistato, a chi mi dice, ha detto, aspetta, adesso io non mi muovo da qua, se non, nel senso il comandante, tutto qua, e poi gli ho detto, io quando entro qua dentro, io voglio vedere le persone che mi sorridono, non mi voglio vedere, detto, questa faccia qua, che mi guarda in cagnesco, ma proprio segnato così davanti a, poi in un attimo la gente, anche a me, subito solidarietà, anche a me hanno fatto così, tutto in un attimo, 40 bassone, sembrava una guerra, che non mi voglio vedere questa faccia di questa persona qua, gli ho detto, una donna, e mi guarda quel cane, se io voglio entrare qua per falta e mi deve fare il sorriso, se no io qua non ci vengo più. Ecco, si gira, sì, c'ha ragione, c'ha ragione. Lei faccia una cosa, non ti dico il cognome, ma ha chiamato per cognome, metto il signore, eccetera. Lei quando viene qua, lei può cambiare tutto quello che vuole, anche senza scontrino, lei viene da me e io gli faccio tutto quello che vuole lei, non si preoccupi, lei deve entrare. Ma un signore è questo, chi sa, una faccia di merda, l'indomani non c'era più, deve essere l'hanno licenziato. Beh, è una che ti fa fuggire i clienti così. A parte, vabbè, si sa che quando vai a cambiare una cosa lo scontrino ci vuole, te lo fanno per cortesia a cambiartela, ma se sanno se tu l'hai comprata o se non l'hai comprata, e se vogliono cambiartela te la cambiano, se no se vogliono trovare scuse, tipo una persona che io ho comprato un baracchino, cazzo, era difettoso, glielo pure ha detto che l'avevo lasciato io, capito? L'ho attaccato e non funzionava, e così ha fatto l'altra gente, e ha detto lascialo stare e poi lo manda al centro assistenza. No, no, io non lo voglio aggiustato, questo qui io l'ho comprato ieri e non funziona, non si accende, quindi magari avete invertito i fili, magari qua, magari là, non si lascia ammado, capito? Scusate, se monopolizziamo, adesso ti racconto un altro episodio, però di lì mi sono spaventato veramente, cacchio, perché è successo a me, se volete ve lo racconto. Ma per me non c'è problema. Allora, ero fuori all'estero, fuori dalla comunità europea, per cui stiamo già parlando di fuori extraeuropee. Mi hanno fatto un regalo, una persona mi ha fatto un regalo e io non l'ho neanche aperto, me l'ho messo in valigia, sono andato all'aeroporto dove c'è il metal detector e tutto quanto, cacchio, mi bloccano la polizia, tra l'altro italiano, non mi avvisava né nulla, chissi, mi bloccano, tipo un terrorista, cazzo c'è, io non ho niente addosso, controllo la valigia, un'ora sono venuti polizia, tutti controllanti, la gente, cosa è successo qua? C'ha qualcosa lì dentro la valigia, cioè, io non c'ho niente, mi guardi, aprite la valigia, cacchio, mi aprono la valigia, cosa c'è qua dentro? Non lo so, è un regalo che mi hanno fatto, qua c'è degli oggetti pericolosi, che cacchio c'è di lì? Me lo apro, infatti io non lo so cosa, me l'hanno regalato, cacchio, apriamo, lo so cosa c'era già dentro. Mi senti? Sì, sì, ascolto. C'hai presente tu quegli spadini, quelli per prendere la frutta, le olive, come si chiamano? La macedonia e cose, quegli spadini con tutte le cose. Sì, sì, che ci sono anche le forchettine, gli spadini, sì, sì, ho capito. Questa era tutta questa roba qua, cacchio, ma ne bella dubba per terrorista. Cacchio, ho detto, me l'hanno sequestrato tutto quanto, hanno preso nome, vabbè, non mi ce l'avevano dato, ho detto, guarda, io non lo sapevo neanche, me l'hanno regalato, cacchio, cosa volete che vi dica? Cacchio, arrivo all'aereo, come stavo arrivando all'aereo, arrivo a Roma con l'aereo, a Fiumicino, come arrivavo all'aereo, ecco, ho detto, finalmente sono arrivato, perché l'ho spaventato, ho detto, cacchio, questi mi arrestano, mi bloccano di lì, sono riuscito a imbarcarmi, ho detto, finalmente, arrivo in Italia, come arrivo a Roma, cacchio, siamo arrivati all'aeroporto, tra qualche minuto potete scendere, come atterriamo, fermi tutti, nessuno si muove qua, per posizione della polizia, ho detto, no, cazzo, dorra. Ho detto, vabbè, cacchio, ho detto di nuovo, deve essere, le hanno detto quelli di qualcosa, meno male, sono venuti, non ha fatto niente. Cacchio, arrivo all'aeroporto di Feltillo, ho detto, non volevo l'ora di arrivare, arrivo all'aeroporto di Feltillo, quando stavo camminando, tranquillo, entro a Feltillo, cacchio, ne arrivano i cani antidroga, inizia questo cane, cacchio, a come si chiama, a scodizio, prima l'ho avvicinato, sono andato a carezzarlo, questo cane inizia, come fanno i cani quando c'è roba, cacchio, inizia a girarmi intorno, subito, faccia vedere lì, ho detto, cacchio, oggi ho detto, proprio giornata di lusso. Tutti contigo la via, è pure un bandrugazzo di biglia. Io sto scherzando, se ti fermano fuori in un paese straniero e tu cacchio non conosci a nessuno, ma sai quanto è brutto? Cacchio, ho detto, finché ti arrestano in Italia è una cosa, ma se ti arrestano fuori, ho detto, cacchio, ti fanno un regalo e poi ti trovi in difficoltà. Io non sapevo neanche cosa era, perché l'hanno messo in valigia e l'avevo bagagli a mano. Cacchio, mi trovo questa roba. Dice, cosa c'è qua dentro? Questo sta segnando, qua c'è roba pericolosa. Io non lo so, lo vedevano, cacchio, vedevano loro, quando lo metti su metà del tetto, vedi l'immagine tipo la lastra e vedi questi coltelli, queste cosettine così, detto, però non me l'hanno detto, ho detto, io non lo so cosa c'è qua dentro, cacchio, me l'hanno sequestrato, meno male, mi hanno voluto bene. E anche mamma le usava quelli, c'erano le forchettine che erano fatte tipo, era tipo un fil di ferro girato, le forchettine per prendere il limone, c'aveva i coltelli, tutte queste cose qua, sì, me le ricordo. Ma tu fai conto che succedeva nel periodo, tipo quando c'era l'11 settembre, ti capita che negli Stati Uniti ti tiravano in carcere prima di dimostrare che non era roba? In Olanda? No, fuori, paesi dell'est. No. Ok, aspetta, facciamo riprendere gli altri, se no monopolizziamo. Chi c'è ancora qua? Riccardi, ci sei? Sì, ci sono, sono in ascolto, sto ascoltando le storie. Aspettate, datemi un attimo di bianco, arrivo subito, scusate, riprendete voi. Poco non arresta la Roberto. È bello, Roberto, io non l'ho finita la storia, dopo ti racconto. Anche Riccardino. Davanti io, bene. Comunque ero in ascolto, come ho detto, ascoltando le storie, come dire, dei pionieri. A me poi. Vabbè. Roberto ha fatto bianco. Roberto è in bianco. No, sono riso in bianco. Dai, ci sentiamo dopo, dai, mi hanno chiamato a mangiare, dai, più tardi. Ciao ciao. Ciao ciao Roberto, anch'io adesso stacco, dai. Ciao Riccardino, ciao a tutti gli amici, dai, vado anch'io a mangiare, che guardo se mi tocca oggi. Bianco per me, ci sentiamo più tardi. Ciao ciao Riccardo, ciao anche a Fabio se c'è. Bello beh, fischia. No, sono Roberto, vabbè, non c'è più nessuno. No, ho detto bello beh, non Roberto. Sono Roberto, se n'è andato, bianco per me. Ha detto Roberto, e poi se n'è andato anche Gianni, mi sembra, e non c'è nessun altro. Ho capito. Vabbè. Sono in QRX, stavo sistemando. Andrà bene, se io mi guardo un po' di TV adesso, poi aspetto, faccio orario per fare la puntata, ma poi mi si goffo. Piazzare sul tetto. ho capito, il condominio che rompe le palle. Allora faccio bene i campi di campagna, non c'è nessuno vicino a me. Bravo. Ho messo 6 litri di palo, quando ho piazzato l'antenna mi stava cadendo, ha ragione raga, perché alla fine ho messo un tubo innocenti sotto, ma se buve la bisanti. Yes. Sì, quei tempi c'era vela 1, vela 2, vela 3. Vela 3 era Giuseppe Pino, che poi non c'è più, buon'anima. E tuo padre non entra più. E io sono entrato che 3-4 mesi, non neanche di più. Io ho fatto un'assenza di 15 anni. Ma non mi ha fregato più niente, adesso è acceso, non è che abbia cambiato più di tanto. Sì, in effetti sì. Com'è la mia radio? Sto usando questo preamplificato da RP3B da tavolo. Già va bene. E io ce l'ho avuto tempo fa, poi avevo venduto tutto a mio figliuccio, ha detto non domani, se non lo vuoi più me lo ritorni. Lui abitava fuori e se l'ha venduto a Faienti. E quello grigio Mandinusa, darne plus 3. Poi su questo apparato esce bene, capito? Io l'ho già avuto tempo fa, quindi. No, oggi sta uscendo bene a fetti il gatto. Chi è che vuole entrare? Chi vuole entrare? Ho sentito un bip sopra di te. Cosa hai detto? Aspetta. Mi senti bene? Guarda come mi senti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, è un po', raga. Ciao Bombolino, Leoncino sono, guarda, sto provando la Turbo 2001 fuori dal terrazzino, come sta uscendo? La radio è forte, Giuseppe, però come segnale non tanto. Cappa, vabbè, come ti arrivo lì? Sì, sei Claudio, sì. Ma cosa Claudio, sono Tonino, ammazza di Nevaria. Ciao Tonino, vabbè. Come ti arriva a te Giuseppe? 9.30 a tutti i positivi, dai. E la radio com'è, buona? La radio è buonissima. Ok, 9.10 tu stai arrivando qua. Cioè buona come radio, a bomba, dai. Sì, ho piazzato quella Turbo 2001 che avevo in macchina, Tonino. Quella la mia, in attesa che metta a posto l'antenna mia, dai, la grande, capito? Adesso sto facendo questa, stasera ero a quella, abbiamo fatto questa prova, vediamo un po' come va. Lascia così, c'è buono. Dopo so il MIP che c'hai, pidi, mirimi, avanti, va poi. Il capo, già ho sentito già, il MIP. Hola. Ora, 9-3, prova. Stavo innescato poco fa, Non so che stavo innescato. E se un cazzo parla, ascolta, Ora. Ma adesso si è per appena consumata la batteria. Ma di segnale adesso come sono? 6-9 qua. Stato. Vabbè, arrivi 9.30. Sto provando quell'apparato che mi ha prestato Antonello, Tony. Ho capito. Ma quale? Quello che stava vendendo? Non ho capito. Quello che stava vendendo, no? No, negativo, no. Questo è quello, l'Intercept 9K, non capivo cosa diavolo. Vabbè, comunque, che mi ha prestato lui? Adesso io il mio sarà cosa? Sarà Fabio che lo sta mettendo a posto, dai. Adesso ci ho messo il macchinino. La radio ho aumentato? Sì, 9.40 adesso sì. E però è troppo amplificata. Guarda. Ma la mia di radio com'è? Tranquilla, sì. Ma che bisogna di alzare il volume, no? No, vai bene, Giuseppe. C'è la bomba. No, come è fortissimo, eh. Esatto. Adesso ho fatto uno stile Antonello. Avrei che mi sente lui, dai. Forza, ti sente. Ma io passo poi me che qui, qua, sennò i nonni. Si sente la televisione e tutto quanto, ragazzi. E non ti puoi sembrare la bocca, difendimi. E allora, cosa ci racconti? Oggi cavolo, però, praticamente, dalla parte del mercato, quello che era tutto un altro pregiato da Romano, da Romano, dalla gente, si è già andato al mare, beato te. Sì, siamo già andato al mare, ma la quantità non è bene, ma io stavo lavorando. Ma io non ti vedo a casa, perché volevo dire mille che potete andare con la donna. Io negativo, non ci posso andare. Perché io sono in quarantena, siccome ho delle patologie, il dottore del lavoro mi ha detto di stare a casa per 2 mesi, fino al 18 luglio. Sono in ferie forzate. No, non ho corona, siccome ho una patologia, sono cardiopatico, sono soggetto di prendere il coronavirus. La massa gli è varia, non c'è mai bisogno di nulla. Vabbè, vuol dire che mi vado sulle fede in casa pagato, dove si chiama? Ma secondo me l'hanno fatto troppo lunga. In effetti, guarda, non è morto un politico, non è morto un calciatore, non è morto un cantante, non è morto nessuno. Allora, se uno moriva di infarto, coronavirus è morto. Uno moriva di un tumore, coronavirus, sempre coronavirus, la massa gli è varia. Ma di questo è un'influenza, un virus, perché anche l'influenza normale è un virus, un raffreddore è un virus, capito? È soltanto che è più pesante, basta, però chi non ha anticorpi, un anziano che dà delle patologie più deboli, giustamente ci rimette le penne, punto e partenza. Non è così, diciamo, che è scappato questo virus dalla Cina, tante cazzate, ga. Ma condivido le tue idee, guarda. La procura vorrei Ma non lo senti a Popolino? Ah, non l'ho capito. Non lo senti a Popolino? Aspetta che sto tenendo un collegamento con il computer, dai. Ho detto, a Popolino non lo senti. Arriva con lo scala, non lo so. Perché due volte ti ha sopravvotato con bimbi di lì. Leoncino che ti super saluta, con la buonasera. Non ho capito, ci siamo sopravvotati, Giuseppe. Cosa hai detto, Leoncino? Hola, hola, hola. Ava, ava, ava. Socio, Giuseppe. Tonino, Kawasaki, se copi qua la bomba, cambio. Giuseppe, ma mi senti? Sì, io ti sento, tu? Se mi hai chiamato, non mi ricordi, Carlo? No, ero in collegamento con il computer, con Antonello, capito? E cosa c'entra il computer con Baracchino, scusa? Se io ti chiamo qua? Vabbè, ma io l'ho chiamato tramite computer, capito? C'hai l'orecchio attaccato al computer. È barrato. Vero, amore. Vabbè, Tony, cosa mi racconti tu? Cosa hai combinato? Niente, io sono in ferie forzate sino al 18 luglio e mi sto grattando la pancia. Niente, mi sto facendo il piccolo orto ogni mattina. Ho capito. Non hai capito? No, non ho capito. A me è male Giorgio. Ah, ho capito quello, sì. E dici non hai capito, Carlo? Perché sono baracchino, computer e telefonino. Fate tutte le cose in uno. Una cosa devi fare, via. Stiamo comprendo tutto. Oh, è Giuseppe. Ti faccio squillare un telefono. A capo come? Sì, sparo per la mano. Ero ragazzo mio, io, che ti ha chiesto, che ti ho citato. Ma tu sono stato in grande. Per carità, che... Vai via. Allora, scusa, ma lo devo vedere, ho capito. Perché faccio che mi dico questo qua. Aspetta, ti faccio sentire una cosa. Secondo parlava con Piero Drago, si incazzava. Quando parli con Torino Kawasaki, o con Torino Chopin e Bucci, che cazzo ha fatto? Torino Cabo. E beh, Pompucci. E beh, come andiamo? Noi bene, se tu vai bene sono contento per te. Se anche io faccio bene, vado bene. Sì, mi sono di nuovo spostato la stazione, bene in alto, adesso è in basso. Ogni tanto sono con John Mendiga. Se devo spostare questo capo da qua dal salone, me la volevo mettere in cameretta, domani. Perché così ho tutte e tre i cavi, capito? Se devo stare una da parte, una all'altra a far rammi. Mi sono fatto lo spezzone, però più durante, più lungo. Perché è taglia. Insomma, da Tonino ci dici per darmi uno spezzone con due pierle, se io l'uno. Sto cazzo non si può cugarlo. E mi ha fatto professionalmente, ha detto guarda Tonino, non voglio dirti niente, ma guarda il piede come è soldato. Scusa la frase, ma ragazzo di cane. Costa 2,50 un piede. 60 cm di cavo te lo faccio vedere davanti tu, lo fai prima. Sì, ma io ne ho spezzone, adesso mi salto quello che mi ha dato lui e lo faccio più lungo perché qua non mi arriva sino. No, che quello già è vero. Sì, prima ero in città io. Adesso respiro l'aria pulita, non più lo smog. Non c'ho il pingo dei senegalesi in giro, pagare dai. Quando io ho occupato casa non c'era nessuno, era bello lì. Poi se poi casinato allora via più veloce della luce. E allora Antonè? C'è un sistema davanti da Giuseppe, a me lo esce. Almeno con la turbo 2001 io ho visto già arriva bene qua, segnale di 5. Non so quanto arriverà, quanto arrivi a te. 9,10 qua arriva. E allora già va bene, pensi che con una telemacchina all'ultimo piano già va bene. Avanti Giuseppe. Ehi, già sono qua, stiamo ascoltando, dai. Già sono qua, sto ascoltando. Sono con le orecchie di parafango. Cambio. Si dice avesse il buco. Comunque che sono pipì, pirimirimì. Pirimirimì, cioppì, cioppalà, eccolo. Segnale 9, 6, radio 5. Antone, vicino all'antenna del baracchino, che te ne sono portato avanti? Ma è da sistemare, l'ho buttata giù e fatta la saldatura e poi ripiazzata. Quindi, ma no, già esce con questa della macchina adesso. Ho buscato la basetta che ce l'avevo trovata io, che l'ho piazzata e provvisoriamente già stavo uscendo, poi vediamo il sistema di naviglio. Antone? Sì, dimmi tu. La mia è una Midland, ci contavi tre radialini, che antenna è tu? Come quella di Giuseppe, è uguale. La Energy 5 ottavi la tua, non che abbia 27 L ai tempi degli anni 90. La Torino l'ho comprata? Lo so, te l'ho detto io. Ce l'ha lui, ce l'ha. 80 euro mi pare che ne voglia. 90 la fatto pagare il pezzo d'animale. Figurati, 80 l'aveva venduta a cosa? Antonello Di Ossi, mai ti parlo. Forse l'anno scorso era. Sono leggere e riescono bene, capito? Pesa un mezzo chilo, ci sono il riparo e tutto. Ed è quello che ha avuto tre io. E ha avuto prima la 1, poi la 5 e poi la turbo, ho piazzato di antenna. Io se trovo la Mantova 1 me la compro. Vediamo la trovo, non so quanti ce ne sono stasera installate, il problema è quando la stacchi non si sa se la stacchi appesa, se la stacchi intera, boh. C'è anche quello il problema, sai, ce ne sono, ma c'è l'altra 2020 quell'antenna, che è stata in via di quella di Abruzzi, compresa la Star Duster. Cioè sono tante di quelle di manto va in giro. È stata sopra i tetti che è in disuso, capito? No, ma io voglio comprare una nuova di Zecca, capito? Da chi da Canalis? Ho detto il tassista che è in pensione, Antonio R20. Il tassista? Eia. Ma che fine ha fatto? Abita lì punti, abita. Ma non lo svolge più il tassista? No, in pensione anche lui. Prima è andato a riservare quella regione in pensione e poi dopo qualche anno è andato via lui. Ormai sono tutti nuovi i tassisti che ci sono, capito? Anche Piero è andato in pensione, quello che abita qua a Carbonazzi, che parlava baracchino. Pure lui, ormai è tutta gente nuova. Vabbè. Leoncino, bidoncino. Giuseppe, niente. Qua. Ah, sono io, sono un attimo impegnato, dai. Giuseppe, Maria Mano. Mi fa rato. Ti vengali. Mi fa rato, Tony. Ammazza. Che te ne senti, eh? Bene. Ecco. Stavo scrivendo una cosa a una persona, dai. Vacci piano con le donne. Lascia perdere, Tony. Lascia perdere. Guarda invece quando ci vediamo verticale ti chiedo un favore a te, dai. Anche domani. Mi siete sotto un po' la mia. Sempre con le portelline, detto. Ma questa non è una portellina, questa è una portellona, hai capito? Quella te lo brucia, eh. Tanto a me non è sta qualcosa. Cazzo, che abbiamo mandato un po' delle amiche mie e le ha fatto fare il suo numero, e si è incazzato. Giuseppe? Dimmi, Tony. Ma ti ricordi quella di Roma, Porto Torres, Cinzia, e la sorella come si chiamava? Allora, quel Porto Torres, una mi sembra che si chiamava Cinzia, l'altra era Stefania, e l'altra era Lepola, in tre era, no? Tu sei Diaco. Era le due, sono usciti insieme a noi. Normalmente, adesso non me lo ricordo, non me lo ricordo il nome, Tony. Io mi ricordo Cinzia, comunque a Cinzia l'ho vista anche 4 anni fa, sono andato a trovarla a casa sua. Una domenica, ha fatto il caffè, si è sposata, si è parata con un siciliano, era troppo gelosa, l'ha mandata in affanculo. E ha sceso anche cosa mi, tra l'amore giù a Porto Torres. Cazzo un po' così maledetto tu, cazzo. A te non ti devono chiamare Tonino Cavalcanti, a te ti devono chiamare Tonino Attila, cazzo, prendi tutto e me non molla mai. Giuseppe, io faccio il mio, quello che posso fare, sono una persona parsimoniosa, delicata, sbarrato. A me piace sempre la patata. Dobbiamo normalmente, Tony, rifare nuovamente la Grecia e frequentarsi un pochettino normalmente, come i vecchi tempi, andare e fare quelle storie là, hai capito? Capisci tu a me, cambio. No, Giuseppe, sono passati quei tempi, ora faccio una persona seria, ho due persone, mi bastano due, basta, non ne faccio più monelli. Lascia perdere, tu mi lascia perdere. A me mi basta quello che ho, anzi, anche domani mattina ho una bella compagnia qua a casa. Io ero monellino, poi il tempo qua, adesso mi sono ritirato. A me non è bisogno, capito? Qui mi va bene così, dai. Prima dei tempi era con Giuseppe, si usciva, si cercava di catturare qualcosa, si erano divertiti. Ma i tempi sono passati, dai Giuseppe, siamo più grandi, più vaccinati. Poi Giuseppe, io sono serio, me. Mi dolci. Dannato sei serio. Ma bufami, Tony. Perché la tabullana è sempre pronta, Ma sono una persona abbastanza tranquilla, serena. Mi manca solo il latte di gallina. E non ho nessun problema. Grazie a Dio. Vivo e lascio vivere. E avanti, Mauro. Pure io qualche anno fa un paladrino avessi che faccia tutto. Che se non l'ho fatto, dai, un po' tutti. Poi giustamente si mette più grande del tavolo, mette più a testa, non è più come viene via la giornata, no, adesso ci ripensi, ci rifletti, cerchi di fare le cose, non sbagliare, capito? No, ma che poi fatta questo? Giri qua, giri là, c'è pure di girare, se non ti fermi, arriva un domani che arriva a un certo età, rimani solo, capito? Invece poi ti comporti bene, prendi un po' di armi, arrivi a un certo età, c'è sempre una o due fisse, sei tranquillo, ecco perché ti metto la testa. Ciao Giuseppe, hai passato al corso a Torino, dai, ci sentiamo. Ma io riprendo fra un quarto d'ora, il tempo di mettere qualcosa nello stomaco e poi riprendo subito, vai. E allora dopo attacco la padella, vedete se mi sorpassi. Cos'è, Tony? Dopo attacco la padellina, vedete se mi sorpassi. Prova. Ehi, adesso è staccata, mi devo fare il piede più lungo. Vabbè, non ti preoccupare che fra un po', quando metto a posto quella questione là, ce l'avrò anch'io la bambolina, stai tranquillo, non ti preoccupare. Per me tu puoi avere anche la mamma gonfiabile. Sei barrato. Oh, ma voi, a me mi vengono spontanee queste battute. Dai Giuseppe, al manco tocchi plastica, non tocchi gas. Dai, mo pure tipo un caricabatterie, ci sentiamo dopo Giuseppe. Ma proprio fuori, non c'è più. Sono qua, passo in camera, vediamo se mi senti con l'altro ballacchino. Mi chiamo quella di scuola, vediamo se mi sentite. Ti sentiamo. Due secondi. Ma ti stavo chiamando questi giorni. Ma telefono? Sì, sono sempre appeso a Simone, ha capito? Adesso ieri l'ho fatta uscire, una volta, capito, in strada. E quindi c'è un paura, magari non si cresce, capito? Adesso mi riesce di nuovo, mi si deve di nuovo riabituare, così almeno si fa la passeggiata. E quindi sono da una cosa all'altra, so. Oggi sono tutto il giorno facendo qua a casa, sistemando la casa, faccio piatti, tutto, dalla lettera, eccetera, eccetera, cucinare, oramai. Mi mando un messaggio, questa rimbambita, cazzo di cosa. Chi è questa qui? Ah no, cosa è? Ignazio, Ignazio Catta, ma fa confiança no lui, della la farmacia. L'ho visto la farmacia, Antonio. È sempre in giro, è divorziato, è sempre in giro. Ah, si era sposato pure? Ha ingrassato un po'? Sì, l'ho visto, è ingrassato. Si è sposato, ha avuto un paio di figli, poi abitavo qua vicino a casa, nei Caborassi. Poi mi ha detto che sono divorziato, sono Antonio, ho mollato mia moglie perché no, non ce la facevo più, mi ha detto, dopodiché. Mi ha detto, in questi giorni ci vediamo, gli ho detto. adesso già di telefono di questi giorni, così invito qualcosa e me lo vedo di nuovo. Era parecchio che è sempre attaccato a questo diavolo di coso, di telefonino lui. C'ha più amiche di fuori che italiane, tutte a seno nudo, boh. Ma non ce la faceva più, perché cosa? Si è divorziato. Ma è tu, che lui era malandrino praticamente. Sì, lui è sempre stato, anche quando era giovane, se ti ricordi, faceva il malandrino. Ho iniziato, allora, la prima ragazza che sentiva la baracchina andava a trovarle. Eppure chiamavamo farmacchina. Sì, anche il fratello è peggio, l'altro, anche quello là, la stessa identica cosa, sempre donne, sempre cercando donne, così anche adesso col telefonino, tutto pieno di fotografie di amiche sue, degli Stati Uniti, tutte panografiche. Perfetto. Oh, io devo aspettare, c'è una massa via telefonica. Ci sentiamo dopo, dai. Ciao, ciao. Ah, buono, adesso quanto se sono stato facendo tutti i giorni o una volta al mese, la verità. Sai che vado nell'altra camera, vediamo se mi senti. Parlavi con un muro. Già me l'ha segnato Falcone, tranquilla. a parlare col muro. Sì. Già me lo ricordo. Hai capito? E adesso? Parla col muro. Guarda col muro adesso, come dice mia madre. E io ce l'ho, capito, lo fermo bene. Io c'ho tutto l'MP3, mi rifà il coso. Ehi, amore, passare Luca. Ci vogliono incrociare, non deve passare, perché l'ha detto prima lui, tutto il CD con tutto Falcone, ma dice che c'è veramente un sacco di roba. Ehi, ci sono i bisticci, c'è lui che canta, lui che va, che vuole andare a scuola, che fa tutto il topo. Io vorrei andare a scuola, a fare uno scolaretto. Certo, in mezzo agli scolaretti. Ai caro, ai caro. Che poi io, cioè, un periodo le abbiamo dato una mano a prendere l'attenzione, che sai cosa voglio dicendo sta cosa? No! Abbiamo beccato gente su, su canali alti, stava mettendo d'accordo per dare un colpo in testa e prendere la pensione, ma davvero? Ah, sì. Ehi, allora io e Chico Lallai, che al tempo era anche CB, ci siamo organizzati per più di qualche mese, per tanti mesi, andavamo a casa sua quando doveva ritirare la pensione, ce la mettevamo in macchina, seguivamo in ufficio postale, prendeva la pensione, la mettevamo in macchina e la portavamo a casa. E beh, fratelli, perché non c'erano scuse, fratello c'era solo per dire cose, a sgridare la gente, me lo ammazzate mio fratello, qualche giorno gli viene un infarto, si fa 1.600 al giorno. No, questa non l'avevo sentita, il giorno era su un altro canale. No, non lo so, non lo so, posso dire che ci siamo preoccupati, siamo andati, l'abbiamo conosciuto il giorno, abbiamo parlato con la madre, e niente, e è venuta fuori questa cosa, e guarda, cioè, non va bene, non va bene, se vuoi siamo disposti a fare questo, la madre ha detto di sì, l'abbiamo fatto. Pagata. E meno male che c'era gente tranquilla, perché so che qualcuno lo portava in pizzeria e pagava la pizza a tutti e poi li fregava anche il resto. Sì, dai, vieni che ti offro la pizza allo specchio. 100.000 lire gli dava la madre ogni volta per andare in pizzeria, e durava senza di là a casa. Sì, sicuro. Però beh, bisogna anche ammettere che, cioè bisogna pensare che questa gente veramente, cioè, noi parlavamo con loro, capito? Guarda, a me nel primo periodo pensavo che fosse una persona che avesse bisogno, che avesse problemi, e un giorno me l'ho portato in macchina. Dai, vieni con me a fare un giro, dai che parliamo così, perché io vedi che non mi vuole nessuno. Vabbè, dai, vieni in macchina con me e ci facciamo un giro. E siamo andati a farci un giro poco prima del bivio per andare a Porto Torres, c'era un vascone dove tutti lavavano le macchine, c'era la fontana eccetera, mi sono fermato lì a bagnare un po' il vetro, a lavare il vetro della macchina, e mi vedo qui, cazzo, come mi sono inchinato con luci pampanati. Me lo posso alzare lo stereo? Va bene, alza lo stereo, questa luce è tan malettona, tutto volume. E poi mi siedo in macchina e ho detto, Paolo, ma qual è il tuo problema? Dimmi che cosa c'è, perché piangi sempre. Perché io, vedi, mi innamoro di ragazzi e loro non mi vogliono, eccetera, eccetera. Io ho capito lì che era un po' suonato. Prima l'ho preso per lì, poi ho capito che era mezzo suonato. Ho detto, mi Paolo, non dire che sei uscito con me, sennò poi mi prendono tutti in giro. No, no, doppio, non dico niente. Cazzo, torno a casa sua, io ero ancora attaccato al baracchino in macchina. E sento, ah, ah, ah, sono uscito con doppio gum, ah, ah. Di qua, dottore, cosa aveva fatto? Un bambino, chi si è gridato? Ah, ti ha portato giù a Falcone, cosa gli hai fatto? Che furia. Vabbè. Cioè, è svitato. È svitato, ignorato. Basta, ma si capisce lontano, cioè, io non lo so, mi ricordo che avevo 13 anni quando ho preso quando per la prima volta ho parlato di frequenza, cioè, avevo 13 anni e ho sentito la sua voce, ho detto quello che diceva e ho pensato, poverino, questo è un po' handicappato, non è che ci ha sbagliato, cioè dopo 3 minuti che l'ho sentito ho capito, non so perché gli altri continuino, abbiamo continuato poi a prenderlo per il culo così, a a giocare strano, perché se lo prendi a gioco è divertente lì, cioè lo stai prendendo un po' in giro, lui si prende in giro da solo, prende in giro a te, cercano battute, me l'ha fatto vedere un po' di volte. Io ero sempre in beffa con le ragazze in macchina, tutte sfasciate dalle risate, le amiche mie. Poi mi ricordo che andavamo, ci nascondevamo in quel rifornitore che c'è lì a Santa Maria, ci mettevamo lì e praticamente, no, Santa Maria era di fronte a Gesù Giuseppe Maria lì. E parlavamo con lui, ah, in doppio comunque ti sento forte. Poi un giorno che abbiamo fatto la voce, mi ha detto chi sei nuovo, io ho detto sì, e come ti chiami? Orgasmo, che tutti i canali andavano a cercare Orgasmo. Che fuori, poveraccio, via. Poveraccio, comunque ancora vivo, poi ho sentito, non so.